Merito a questi ragazzi, sono stati straordinari sotto tutti i punti di vista. Hanno fatto una stagione bella, intensa, faticosa, però sono sempre stati sul pezzo. Questo mi è piaciuto tanto perché dalla prima giornata abbiamo tirato, diciamo, il gruppone. Ha paura di perdere il professionista o ci mette la mano sul fuoco e Conte ci sarà? No, ci metto la mano sul fuoco, questo con tutto il rispetto che va al professionista, perché conosco l'uomo. Tutti convocati di Carlo Genta. Cari amici convocati, vi aspetto 800240024. Mentre pensate al tango degli allenatori del pallone che arriverà subito dopo, io voglio aprire con qualcos'altro questa puntata perché non si direbbe guardando fuori dalla finestra oggi a Milano, però sono i giorni più caldi della grande primavera del basket, via i playoff, scudetto anche con una grande sorpresa, la vittoria di Reggio Emilia a Roma. Oggi cominciano le Final Four di Eurolega a Londra con Ettore Messina che col CSKA Mosca va a caccia di nuovo della Coppa più bella, poi playoff NBA con un tabellone incredibile che propone tutte le sfide di semifinale di Conference sull'1-1, equilibrio totale. Ed è per questo che dal basket oggi voglio partire e spero vogliate partire anche voi intervenendo con coach Dan Peterson. Well, now they gave him his orders in Monroe, Virginia. They said, "Steve, you're way behind time. This is not 38. This is old 97. Put her in dispenser on time." Coach, come diresti tu, abbiamo le mani piene. Ciao. Esatto, è chiaro. E ti rispondo da Londra, proprio sono nel navetta. Adesso andando a palazzo perché ovviamente facciamo le due partite Sì. di questa sera alle 18 Sport Italia, facciamo Cesc CSKA, contro Olympiacos, Olympiacos. replay dell'anno scorso alla 21 Superclassico Real Barça. Ovviamente faremo un tifo anche dichiarato per Ettore Messina, almeno io lo farò. chiaro, chiaro, chiaro, l'unico rappresentante italiano rimasto proprio nell'Eurolega è anche il super coach, quindi un grande bocca al lupo per lui. Sì, senti, ieri saprai anche che Reggio Emilia ha vinto a Roma, il risultato che non ti aspetti. Sassari ha piallato Cantù 90-70 con il debutto di un killer, perché ha deciso di prendere un killer per questi playoff Sassari, cioè Sani Becirovic, che è stato infatti chirurgico nelle sue scelte, nelle sue percentuali. Però, coach, al meglio delle sette partite, sono risultati ancora che ancora significano poco. Esatto, io dico anche se Cantù ha preso 20 ieri, io sono sempre dell'idea che prima o poi le pezze vengono insieme per loro, perché è un grande allenatore in trinchiere, ottimi giocatori, e se Mancinelli riesce a fare qualcosa per loro e riesce a recuperare la gente che è un po' accecata, loro possono far bene. Però tu hai detto benissimo che le aggiunte di Drew Gordon e Sani Becirovic per questa squadra stanno aumentato, diciamo, la lunghezza della panchina e anche aumentata la qualità dei giocatori che mettono in campo. Quindi fanno dei cambi adesso e tutti dicono che in allenamento i due Diener e Deciro fanno gare di tiro e nessuno sbaglia per mezz'ora, tanto per dire. Quindi sono elementi fortissimi. Coach, c'è anche Siena-Milano subito, molto presto. Varese-Venezia mi sembra una sfida abbastanza segnata. Tra Milano e Siena chi esce dal buco? Allora, ho già detto la Gazzetta 4-3 con la settima partita che va a supplementare, ma non sottovalutare Venezia, No. Carlo, perché Venezia adesso che okay, aveva tanti acciacchi, tanti fuori, tutto l'anno, non hanno fatto neanche Final Eight per la Coppa Italia, adesso sono qui ottavo posto, che è la squadra che forse meno vorrei incontrare alla prima parte è proprio loro. Leggera. Come? Squadra che può giocare molto leggera, coach. Esatto, non c'è pressione e Non hanno c'è qualità, pressione. ok? Šefček sta giocando da Dio dopo tanti acciacchi, Kiki Clark è a posto, hanno diverse soluzioni, sono atletici e sono lunghi, sono alti in campo e profondi in panchina. Quindi è una squadra che Varese deve prendere con le pinze, come hai detto tu prima, una mini sorpresa ieri sera, Reggio Emilia, grande vittoria per loro a Roma, una squadra con una grande difesa. Tendiamo, Carlo, a sottovalutare le squadre di grande difesa. Loro

Bene, l'ultima domanda è questa. Caro avvocato Pasqualini, intanto io ho riflettuto, mi piaceva di più la seconda definizione, quella che mi ha dato prima. Beh, guardi che la querelo, perché mi è, no, sostanzialmente non mi querelli, mi ha definito, no, lei potrà difendersi, no, dicendo, no, che mi sono autodefinito, si è autodefinito uomo da marciapiede. Ma è stata bellissima, lo sono anch'io, con il microfono, ma lo sono anch'io, glielo giuro. Se, no, è questa la mia domanda, perché, allora... Alessandro Del Piero, qui lei è stato vicino tanti anni e mi scuso se torno sempre lì ogni volta. No, io la ringrazio, torni su Del Piero finché vuole, perché ecco. è una perla fulgida della mia collezione. Magari anche un pezzo della sua vita. Ma perché la Juventus l'ha lasciato davanti alla televisione nel giorno dello scudetto? Secondo lei, diceva, purtroppo è trapassato da poco, era il filosofo dell'ovvio. Parlo di quel catalano che diceva è sempre meglio vincere che perdere, ma quando qualcuno gli chiedeva dove andiamo, chi siamo, cosa facciamo, e lui rispondeva sempre saperlo, e quindi viene anche a me da rispondere con le parole di catalano, saperlo. Avvocato, è sempre un piacere parlare con lei, io la chiamo avvocato, l'uomo da marciapiede lo faccio io. Facciamo così. Grazie a lei, buona continuazione. Grazie avvocato Pasqualino. 800 24 00 24, amici miei, e vi convoco tutti a partire da Gennaro, da Monza. Buongiorno Giancarlo, grazie. Buongiorno. Per essere stato convocato. Giancarlo non mi ha mai chiamato nessuno, però è il mio vero nome. Carlo, va bene, Carlo, okay. Carlo Giancarlo. Niente, l'argomento è famolo strama, no? Famolo strama. Volevo dire, secondo me fa bene Moratti, io sono tifoso del Napoli, ci tengo a dirlo. Mm. E secondo me fa bene Moratti a riconfermarlo. Mm. Anche perché se guardiamo un po' indietro, Mourinho nell'anno del triplete doveva essere cacciato ai gironi della Champions League, se ti ricordi, ti do del tu. Scusami. Certo. No, ma certo. Invece non l'ha cacciato perché c'erano problemi economici e poi passò da un buco della serratura molto stretto, ma la Champions League è anche questa. Perché però anche in campionato non andava bene. Non ci dimentichiamo che ha vinto due scudetti con la Roma dietro proprio là all'ultimo momento. Però gli ha vinti. Secondo me fa bene non cacciarlo a Stramaccioni, perché è giusto che comunque questi nuovi... allenatori fanno un po' di esperienze. Insomma, ci sono anche dei gradini da salire, no? Come insegnano molti altri allenatori, lo stesso Mazzarri o Carlo Ancelotti, che pure è partito da alto livello. Insomma, abbiamo tutti simpatia per questi giovani allenatori. Però, insomma, un conto è dargli la patente, no? E quindi fargli guidare certi tipi di macchina. Un conto è dargli la super patente e metterlo al volante di una Formula 1. Cosa legittima, se tu ci credi, lo puoi fare. Moratti ha sempre creduto in Stramaccione e l'ha sempre difeso. Mentre in altri allenatori che ha avuto nel passato ha creduto molto di meno, non li ha mai difesi e li ha cacciati alla prima occasione. Il problema è quale Inter per Stramaccioni l'anno prossimo. 800 24 00 24, Dario e Massimo state lì, c'è la borsa e poi torniamo. Stramaccioni mi piace, è un grande, io sono innamoratissimo come tutti gli interisti dopo la grande vittoria con la Juve, che per noi interisti vale come vincere uno scudetto, ecco. Tutti convocati. C'è anche Capello che promuove Allegri, oltre ai suoi giocatori in blocco, ma tra poco parliamo di telefonate e di indiscrezioni. A proposito di indiscrezioni, c'è un mio caro amico molto ben introdotto nell'ambiente dell'Inter che mi ha ora mandato un messaggio scrivendo che è certo il prossimo allenatore dell'Inter sarà Mazzarri, ma all'Inter... insomma, le voci sono sempre abbastanza incontrollabili. Io penso sinceramente che Stramaccioni verrà confermato. Andrea. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno signor Carlo, grazie per l'opportunità. Grazie a voi. Volevo fare una considerazione sull'Inter e sulla Juventus, partendo dal fatto che sono juventino. L'Inter secondo me ha un allenatore molto competente, forse quello che manca all'Inter è una squadra all'altezza sia del campionato italiano che sì. del, a livello europeo. I giocatori quindi, non ci sono, certo. Questo è palese, oltre agli infortuni ci mancherebbe altro, però insomma la squadra è quella che è, non è sicuramente la squadra che aveva Mourinho, questo è... No, non è la squadra che aveva Mourinho, però non è neanche giusto dire che... No. Secondo me l'Inter, la squadra attuale dell'Inter merita la classifica che ha. Sì, certo è certo. che leggere che l'Inter ha subito, se non sbaglio, più gol del Palermo è tanta roba. Insomma, questo deve far riflettere anche e capire le motivazioni. Sì, le motivazioni, però se è un allenatore, se è in difficoltà, magari un'impronta diversa. Si offese Stramaccioni quando dissero che l'Inter aveva giocato in modo provinciale, peraltro in un momento in cui andava meravigliosamente bene in campionato. Sì. Non è un'offesa, è semplicemente una lettura anche diversa. Da tecnico, perché sono anche un allenatore di calcio. Quindi io, secondo me, Stramaccioni è un ottimo allenatore. Ecco, bisogna ovviamente valutare il tecnico con ovviamente dei personaggi, dei giocatori leggermente diversi da quello che ha tuttora. Beh, ci vogliono i giocatori. I giocatori attuali non sono giocatori da grande squadra. Su questo non ce ne sono, due o tre che possono. D'altra parte, quale mercato possono avere? C'è Handanovic che ha probabilmente mercato, che è un grande portiere e può essere che venga monetizzato, può essere che venga scambiato con qualcuno del Barcellona, si dice Fabregas più di Sanchez, ma questo è fumo ancora al momento. Dario, provincia di Bergamo. Buongiorno e grazie di essere stato convocato. Grazie a lei, non ringraziate me, sono io che ringrazio voi che mi fate compagnia. Grazie mille, tutti i giorni perché mi piace questa trasmissione da quando l'ho conosciuta 5 anni fa. Benissimo. Una domanda stupida, ma tutti stiamo lì a guardare che Ferguson, un grande allenatore, è stato una vita al Manchester, tutti a fare gli elogi, e poi il nostro presidente, quando non sa che fare, vuole cambiare l'allenatore, parlo di Allegri, sì. che secondo me ha fatto i miracoli quest'anno. Poi parlo di Dio, io non me ne intendo di calcio, però ha preso, gli hanno cambiato la squadra, cioè gliel'ha mandati via tutti, gli hanno detto devi arrivare terzo per forza, se non stai a casa, ci sta riuscendo grazie a Dio, un po' di fortuna, un po' di bravura, un po' di tutto, un po' di Balotelli, ha tirato fuori dei bei giovani e adesso dice non capisce niente. Ma non è che dei due, senza nulla togliere, quello che capisce un po' meno è la persona in questione. Qua lo dico e qua lo nego nel senso buono. Io gli voglio bene, però penso che a volte arrivati a una certa età magari gli escano delle frasi che sarebbe meglio. Ma sa, i presidenti sono così, insomma, e quello cui lei fa riferimento, cioè Silvio Berlusconi, non è molto diverso da tutti gli altri. Con Allegri c'è sempre stato un rapporto di fiducia scricchiolante a partire dalla vicenda Ronaldinho in poi. Sono d'accordo sul fatto che Allegri abbia condotto la miglior stagione della sua carriera milanista. Io credo lo stesso e sono fermamente convinto del fatto che non verrà confermato proprio per la limitata fiducia o assenza di fiducia che c'è da parte della proprietà, perché i presidenti sono così. Ma c'era una bellissima pubblicità della Team, era una telefonata lungo la vita. Potrei fare una telefonata. La solita telefonata o le solite telefonate che mi fa il presidente prima di una partita o dopo una partita. Prima di una partita per sapere come stanno i ragazzi, per fare in bocca al lupo. E dopo la partita per sapere come l'ho vista, come è andata. Credo che sia una normale telefonata tra un presidente e un allenatore. Che fine hai fatto? Meno male che c'è il telefono. Come stai? Una telefonata allunga la vita. Questa storia della telefonata che allunga la vita l'ha tirata fuori Galliani, mentre noi dai cassetti della memoria abbiamo tirato fuori lo spot. Però c'è anche un'altra dichiarazione che ieri ha fatto parecchio rumore, che è quella del patron del Sassuolo, nonché presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, che ha detto delle cose, parole riportate da Berlusconi, ma hanno fatto rumore, sono queste. Ma io penso che con i mezzi che gli hanno messo a disposizione quest'anno abbia fatto praticamente quasi tutto il possibile. L'acchiappare la Champions dopo la partenza che c'è stata, dopo lo svuotamento della squadra, sia già un risultato che non tanti allenatori sarebbero stati capaci di fare. Io sarei per tenerlo, suggerirei di tenerlo. Insomma. Questo non vuol dire che Allegri comunque è un caratterino, non è uno che si fa tanto condizionare. E infatti Silvio Berlusconi ogni tanto mi chiama e dice: ma il tuo allenatore lì non capisce niente, pensa che mi mette El Shaarawy in panchina. adesso vediamo se arriveranno smentite ad altissimo livello per questa dichiarazione, ricordando che Max Allegri è stato proprio allenatore del Sassuolo con il quale aveva fatto grandissime cose. Massimo, Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno Giancarlo, oggi ho fatto una scoperta epocale che lei si chiama Giancarlo. Non lo sa neanche mia mamma, credo, se lo ricorda più. No, niente, io di solito chiamo per parlare di Inter, ma oggi ho lasciato a casa il frustino, il martello e tutto ciò che può servire a farsi del male. E quindi... E cosa ha portato? Ma guardi, un po' di entusiasmo, io volevo semplicemente così fare... Insomma, fare i complimenti alla squadra di basket della mia città, che è Reggio Emilia, che ha fatto una bellissima stagione, sono neopromossi, sono riusciti addirittura ad arrivare ai playoff. Mi pare anche che dal punto di vista economico, adesso mi corregga se sbaglio, mi pare anche che la società sia sana. E niente, volevo soltanto così complimentarmi con la squadra di Reggio, sperando che dia ancora un po' di filo da torcere a Roma, ecco, sì. Tutto lì. Ma certo, ma io la invito lei e tutti gli altri ad andare al palazzetto, perché i playoff sono forse il mio spettacolo sportivo preferito, no? Sono partite senza domani, anche se mi hanno annacquato il sapore allungando queste serie sulle 7 partite, e dunque per questo dico che la vittoria di Reggio Emilia a Roma con un giocatore che è bella, non è vero che, per rispondere a un SMS precedente, non è vero che non l'ho visto Reggio Emilia, l'ho vista in questa stagione, tanto per chiarire. Beh, un giocatore come Bell, che è un divago ma che a questi livelli è uno che sa fare canestro e che non ha paura a giocare partite decisive. Cristian, Bologna. Ciao Carlo, innanzitutto grazie per avermi convocato. Io purtroppo volevo parlare di basket, da bolognese. Purtroppo è uno dei pochi anni a cui dobbiamo assistere ai playoff senza viverli direttamente con la mia squadra del cuore, che è la Virtus. E sulla quale appunto volevo conoscere la tua opinione sull'operato del patron Sabatini, che non so se sei letto, se sei al corrente, che ha abbandonato, ha dato le dimissioni e a breve partirà l'avventura Villalta, del nuovo presidente Villalta. Sì. Villalta, Villalta si è parlato anche di buon amico con un ruolo dirigenziale. Non dimentichiamo, Cristian, tu magari te ne freghi o magari sei contento anche di quell'altra notizia, del tentativo di resurrezione della Fortitudo, che è sempre stato un ibrido, non è stata mai vissuta come tale dai tifosi dell'Aquila, però a me fa un male da morire, sportivamente parlando, non vedere la Fortitudo in Serie A. Non la vedremo neanche in A2, la vedremo chissà dove, chissà come, chissà quando. No, anche perché essendo abituati a vivere sfide, una volta il derby di Bologna è stato a finale scudetto, o anche addirittura semifinali d'Eurolega con, non so se ricordi, il canestro di Danilovic in faccia a Wilkins, canestro da 4 famoso. Lo ricordo abbastanza bene, sì. Infatti, quindi purtroppo quest'anno, secondo me, Sabatini negli ultimi anni, come ha gestito ottimamente il settore giovanile, perché la Virtus ha vinto il titolo nazionale Under-19, Under-17 e sicuramente ha fatto debuttare in prima squadra dei talenti come poche altre squadre stanno facendo in Serie A, però per me l'operato di Sabatini è insoddisfacente negli ultimi anni. La Virtus ha una storia, la Virtus, la tradizione del basket italiano, non può arrivare terz'ultimo in Serie A. Sì. Non so, la sua opinione qual è? La mia opinione è che Sabatini ha finito la sua missione, che da un paio d'anni non la sentiva più sua, si è un po' spento probabilmente anche nell'entusiasmo, c'era bisogno di un rinnovamento. Io vorrò capire quali possibilità economiche avrà la Virtus di Renato Villalta, che di questa squadra è stato una bandiera, quindi si tratta di capire quale sarà l'organigramma societario e da dove arriveranno i denari per costruire. Poi vale per la Virtus Bologna così come per l'Inter, così come dicevo ieri è stato per la Juventus, così come è stato per il Milan, vivere un'annata che più storta non si può e poi ricostruire, questo è fisiologico. Luigi Terni, buonasera. Senta, mi permette di ascoltare insieme a lei il traffico, visto che sono le 14:45, poi parliamo con calma? Strade. Buongiorno Giancarlo. Tutti convocati. Luca da Vicenza che mi manda un messaggio: Allegri avrà fatto anche i miracoli, ma non dimentichiamo che a settembre Galliani ha detto che il Milan era tra le pretendenti per vincere lo scudetto, ma arriverà a 20 punti dalla prima. È evidente anche, caro Luca, che Galliani ha fatto semplicemente della propaganda elettorale, perché non stava né in cielo né in terra che il Milan a settembre, quindi prima ancora dell'arrivo di Balotelli, che ha comunque rivitalizzato al di là dei gol, ha ridato fiducia ad un ambiente che comunque stava già crescendo, ad una squadra che comunque aveva già una faccia migliore, un gioco migliore, una condizione migliore. Ebbene, a settembre il Milan, sappiamo quello che valeva, no? Le ultime posizioni della classifica in un clima di grande depressione. Luigi Terni. Buonasera. Buonasera. Io sono ottimista e volevo parlare di Allegri, ma vedo che oggi è inflazionata questa cosa. Sono argomenti interessanti. Per esempio, per me è molto interessante anche il fatto che con Allegri non c'entra nulla l'evoluzione rapidissima della questione della panchina del Manchester United, cioè Ferguson che annuncia le dimissioni e dopo quasi 27 anni, 38 trofei vinti, e il giorno dopo arriva un nuovo allenatore scozzese, anche lui di lunga data, a un'altra squadra inglese, sì, ma è stato all'Everton dal 2002 fino ad oggi, quindi un allenatore che di lungo corso. E festa e situazione risolta molto tranquillamente nel giro di poche ore. È una storia molto interessante. Dica di Allegri invece. No, comunque volevo dire, io non sono molto d'accordo quando si diceva che Allegri fa i miracoli, perché con l'organico che c'è il Milan, ma il Milan c'ha 13 nazionali, a te costantemente in panchina. Cioè, non è tanto scarso questo organico come si vuole far credere, voglio dire, cioè 13 nazionali, solo 5 in Italia. Solo 5 nella squadra italiana, cioè, non mi sembra che sia un organico tanto scarso. Io penso che il terzo posto sia il minimo che poteva fare Allegri con quella squadra. Ma no, io credo che invece fosse il massimo. Io credo che per come era partita la stagione, adesso non fossilizziamoci sul numero dei nazionali, che poi vediamo quali nazionali, vediamo quale ruolo nelle rispettive nazionali, eccetera, eccetera. Allegri è stato molto bravo nel rivitalizzare questa squadra che ha sentito il contraccolpo ovviamente dell'estate, della diaspora, e all'inizio della stagione il Milan era terz'ultimo, se non ricordo male, dopo 7 partite. Poi mattone dopo mattone, idea dopo idea, è riuscito comunque a creare una squadra che ha fatto una grande rimonta. Questo è un dato di fatto. Quindi non vedo un Milan, non sopravvaluterei l'organico del Milan, che è chiaramente da svecchiare, che è chiaramente, non dico da rifondare, perché dei passi verso la ristrutturazione, a differenza dell'Inter, sono stati fatti. Allora, adesso però voglio chiudere da dove siamo partiti, e cioè dalla primavera dei playoff andando negli Stati Uniti. Prende il tiro da tre! Giocatore di biliardo al tabellone, più due match, la partita si accende, la serie decolla, il palleggio per Michael Jordan è al spazio, tutti lo aspettano, può essere l'ultima azione della sua carriera NBA, Michael Jeffrey Jordan! A me vengono i brividi tutte le volte, non so a te Flavio, tranquillo. Buongiorno anche a me, per il freddo però. Ma che freddo, ma quale freddo? No, piuttosto fa caldissimo negli Stati Uniti, perché 1-1, 1-1, 1-1, 1-1, sembra calcio, sembra tennis, non sembrano serie di semifinali di conference. Equilibrio quasi, quasi crudele e meraviglioso. Davvero meraviglioso, se consideriamo che c'è stata una notte in cui hanno avuto al primo turno 4 gare 6, poi nessuna di quelle serie è andata a gara 7, però hanno avuto 4 gare 6 e effettivamente mi sembrano dei playoff che finora in ottica NBA e quindi in ottica di noi spettatori sono il massimo che si può attendere. Nella notte ho visto la replica della pesante sconfitta di Chicago contro gli Heat. Hurt versus Heat, questo è lo slogan dei Bulls, ma senza giocatori è davvero bello vedere una squadra così ben allenata che si batte allo stremo delle forze, però la sfida è impari, a meno che non rientrino, non credo Rose, ma quantomeno il Waldeng e magari qualche altro infortunato. Ma è ovvio che almeno con Deng e Heinrich, lasciando perdere per un attimo Rose, allungherebbero la rotazione e la qualità della stessa, soprattutto per giocare quel tipo di pallacanestro. Io penso che la vittoria in gara 1 di Chicago con quel roster sia uno degli upset, forse delle sorprese più incredibili della storia del basket americano, roba del livello di NC State che batte la Houston di Olajuwon. La sfortuna per Chicago è che qui si gioca al meglio di 7 e non come nella Final Four CAA secchi. Sì, e quindi al meglio delle sette, quella più forte tendenzialmente vince. Non capisco quale sia la più forte tra Oklahoma City e Memphis, che gioca molto molto bene. Gioca molto molto bene e Oklahoma sta fatalmente risentendo dell'assenza del suo secondo violino. Beh, se Lady Westbrook a questa edizione dei Thunder, già anche l'anno scorso con Harden, sarebbe stato molto complesso, però naturalmente sarebbe stato diverso. In questo momento manca un giocatore che fa succedere una serie di cose, alcune di queste cose sono anche magari non necessariamente fauste per i Thunder, da una palla persa a un tiro forzato, ma la maggioranza di queste cose si traducono in centimetri se non a volte metri di spazio in più per i compagni. E allora quando la tua terza punta è Martin, non puoi dire a Martin adesso fai Westbrook. Forse Harden più o meno potevi dirlo, ma Martin no. Non ce la fai. Stiamo assistendo al brillare, allo sfavillare della stella di Steve Curry nei Golden State, che pure hanno fatto altra grandissima impresa, perché battere San Antonio non è semplice per una squadra così. Io ti direi che hanno fatto una super impresa, perché hanno battuto San Antonio due volte, perché hanno battuti anche in gara 1, poi il punteggio finale è stato San Antonio 129, Warriors 127, ma la vittoria, o meglio la partita, sostanzialmente l'aveva vinta Golden State. Poi è arrivato Ginobili e ha deciso che era qualcosa di diverso. Esatto, poi è arrivato Ginobili, è arrivata la difesa, sono arrivate tante cose. Adesso io credo che diventi fondamentale la terza partita. Se pensiamo alla serie con i Nuggets, vittoria di Denver in volata, in rimonta sulla sirena, proprio come quella degli Spurs in gara 1, e tutti a pensare, oh bravi Warriors, però ormai quello che dovevano fare l'hanno fatto. Una bellissima gara 1, poi ne vinceranno una in casa per l'onore e finisce lì. Invece hanno vinto gara 2 a Denver, hanno vinto gara 2 a San Antonio e contro Denver, e poi hanno portato a casa gara 3, e da lì non c'era più possibilità di che perdessero, letteralmente. Non so se sarà così anche stavolta, ma gli Spurs sanno che gara 3 è qualcosa di più che quello che loro chiamano pivotal game, ovvero sia una partita fondamentale. Beh, insomma, ci tocca far tardi, ci tocca non dormire, ma questa è la primavera dei canestri. Grazie Flavio. A voi. Buon lavoro a Flavio Tranquillo. Dunque, noi adesso ci fermiamo e chiudiamo la settimana degli appuntamenti delle 14 con tutti i convocati. Ci sentiamo domani con il magazine alle 17. Giorgio De Luca, grazie per il lavoro in redazione. Roberto Scaltritti in regia. Ciao a tutti.